Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Priscilla. Ben ritrovati e ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Una mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che apre verso l'estate e non c'è estate se non ci sono libri. Libri da leggere sotto l'ombrellone, e infatti siamo in uno straordinario giugno di libri qui a Van Loon, perché i suggerimenti che vi daremo e magari che potremo accogliere anche sulla nostra pagina Facebook sono tanti. Partiamo da questa puntata in cui Van Loon entra in un argomento in cui è già entrato qualche volta, che è quello della Seconda Guerra Mondiale. Ma entriamo nell'argomento Seconda Guerra Mondiale scegliendo come punto di entrata, come chiave, quella di un libro, per l'appunto, che non esitiamo a definire come eccezionale. Eccezionale perché ci è piaciuto molto e soprattutto perché trova una strada per raccontare un argomento complesso come quello della Seconda Guerra Mondiale molto comprensibile. Hanno prima notazione molto importante: si tratta di un libro che possiamo inserire in quello che viene definito come genere di libri per ragazzi. Poi sappiamo benissimo che si è sempre ragazzi, sappiamo che i libri che vanno bene per i ragazzi vanno bene per tutti. Però questo è un libro esplicitamente rivolto a un gruppo, a un pubblico di giovanissimi, per cui la maniera di raccontare la Seconda Guerra Mondiale a un pubblico di giovanissimi è stata veramente molto molto buona. Il libro di cui stiamo parlando è La sfolgorante luce di due stelle rosse di Davide Morosinotto, edito da Mondadori nel 2017, e racconta di un argomento molto particolare, un argomento di cui spesso magari si parla poco anche all'interno della discussione sulla Seconda Guerra Mondiale, che è l'assedio nazista a Leningrado del 1941. Tra poco intervisteremo direttamente l'autore e ci faremo raccontare e spiegare la scelta di questo soggetto insolito, o perlomeno per noi insolito, per un libro per ragazzi. Nell'attesa di sentire Davide ai nostri microfoni, ci ascoltiamo insieme un brano. Siamo andati a prendere una raccolta, On the Frontline, di Black Roots. La raccolta è del 2004 e va a guardare retrospettivamente tutta la carriera di questo gruppo reggae inglese. Ci è piaciuto perché siamo partiti dal titolo, per l'appunto, On the Frontline. E pian pianino, nell'arco di questa puntata, vi suggeriremo alcuni pezzi che raccontano bene quel tipo di atmosfera. Naturalmente il caldo della musica reggae è ben lontano dalle fredde atmosfere dell'assedio nazista di Leningrado, ma ci sembrava che evocassero, per l'appunto, quelle stesse atmosfere. Per cui partiamo con il nostro ascolto da Frontline. Fight like a partiamo adesso dalla cornice storica del libro. Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Il 21 giugno del 1941 Hitler tradisce il patto di non aggressione che aveva fatto con Stalin e invade territorialmente l'Unione Sovietica. In pochi giorni l'esercito sovietico però viene annientato e l'assedio si stringe attorno alla città di Leningrado, oggi San Pietroburgo. Il romanzo di Davide Morosinotto si ispira liberamente a fatti davvero accaduti e ai treni dei bambini, ne parleremo meglio in seguito, che vennero predisposti per far evacuare da Leningrado bambini e ragazzi. In poco tempo 400.000 bambini e ragazzi vennero spediti a est, al sicuro, tra virgolette, completamente da soli, senza preparazione, senza informazione sulla durata della loro permanenza fuori dalla città e lontano dai genitori. Molti di loro infatti morirono per fame e per privazioni. Il romanzo di Davide Morosinotto racconta la storia di due gemelli russi di 13 anni che sono Viktor e Nadia, che devono lasciare Leningrado assediata dai nazisti, e la storia dei loro genitori, che sono due dipendenti del museo dell'Ermitage. Il padre viene arruolato al fronte, la madre resta al museo impegnata nel salvataggio di tutte le opere. I ragazzi vengono costretti, come vi ho accennato prima, dalle autorità sovietiche a salire sui treni dei bambini per raggiungere le colonie agricole a est. Dovrebbero rimanere insieme in quanto fratelli, ma in stazione vengono fatti salire su due treni diversi e da questo momento si sviluppano due storie parallele, raccontate attraverso i diari che i due fratelli, i due gemelli, prima di partire si promettono reciprocamente di scrivere e aggiornare. La storia è raccontata quindi a due voci ed è come se la scoprissimo a posteriori attraverso il punto di vista di un dirigente militare sovietico, che è il colonnello Smirnov, che interviene costantemente lungo il racconto per valutare la condotta dei due ragazzi alla ricerca di tracce di un presunto complotto antisovietico. Poi il libro viene completato, come vedrete, come spero che leggerete, il libro viene completato da fotografie e altri documenti più o meno originali dell'epoca. Adesso comunque, prima di passare all'intervista, alla chiacchierata con Davide Morosinotto, noi andiamo avanti con la nostra atmosfera giamaicana innestata nella steppa russa del 1941 e vi facciamo ascoltare Frey Move On. Stiamo parlando di fughe, stiamo parlando di bambini che scappano da Leningrado, per cui questo pezzo ci sembrava che potesse raccontarlo altrettanto bene. Move on, move on, move on. Get on out. Bene, dopo aver ascoltato i Black Roots con Move On, andiamo a presentare l'autore che avremo ospite con noi fra poco. Si tratta di Davide Morosinotto, nato a Campo San Piero nel 1980, giornalista, traduttore di videogiochi, scrittore di fantascienza e molto conosciuto come autore di libri per ragazzi. Nel 2007 ha vinto il Mondadori Junior Award e ha pubblicato il suo primo libro. Da allora ha scritto più di 30 testi, anche se non sempre con il suo vero nome, ha preferito utilizzare un nom de plume. Nel 2017 ha vinto il Super Premio Andersen con... Allora, ecco con noi, abbiamo invitato oggi in studio, come vi abbiamo annunciato fin dall'inizio, Davide Morosinotto, scrittore e autore del nostro libro che presentiamo oggi. Allora, cominciamo magari con le prime domande. Noi innanzitutto la curiosità che abbiamo di fronte al tuo bellissimo romanzo è: perché la scelta di un soggetto come questo per un libro per ragazzi? Ma ho scoperto per caso una serie di storie vere che stavano legate a quello che è successo nella città di Leningrado durante la Seconda Guerra Mondiale, e in particolare mi ha colpito la storia di questi treni pieni di ragazzi che venivano mandati via dalla città nel tentativo di metterli al sicuro. Erano treni di ragazzi e quindi mi sembrava logico provare a raccontarlo ai ragazzi. C'è una motivazione molto meno complicata di tutta la costruzione che mi ero fatta io, tutte le aspettative che avevo. No, questo, guarda, e a questo punto mi collego subito con una domanda che avevo pensato di farti in coda, visto che hai parlato di una storia di ragazzi per ragazzi. Secondo te come si riesce a raccontare, o perlomeno qual è la strada che tu hai scelto per raccontare di storia, anche delle storie un po', una storia un po' complessa, diciamo, raccontarla per l'appunto con i ragazzi, scusa, con i ragazzi, per i ragazzi, tramite un romanzo, cioè, e in più che posto può avere la storia all'interno della letteratura per ragazzi? Ma la storia spesso nella letteratura per ragazzi è un grandissimo spunto, perché è piena di avventure, di cose che succedono, che sono successe davvero, esperienze che persone hanno vissuto davvero, quindi la storia è un serbatoio enorme di idee, e i nemici facciamo un sacco di ricerche proprio per cercare possibili storie nascoste nella storia grande, e secondo me per raccontare ai ragazzi poi si può raccontare davvero qualsiasi tema, e il lavoro e l'attenzione è nel punto di vista, gli occhi e la voce che raccontano una certa cosa e che quindi in qualche modo anche la filtrano e la portano a portata. Infatti io, rispetto anche a questo, volevo chiederti proprio una cosa, perché sono rimasta colpita anche dalla tua capacità di tradurre alcuni concetti importanti anche, no? Che poi sono entrati all'interno del linguaggio comune, no? dell'immaginario comune solo di recente, o anche dei concetti storiografici molto interessanti. Per esempio, io ho notato proprio che la storia, quella con la S maiuscola, viene esplorata attraverso, ok, gli occhi dei due giovani protagonisti, però non viene mai edulcorata, no? Cioè, il lettore, il ragazzo, quindi non viene mai rassicurato rispetto a quello che sta succedendo. Quindi la guerra, la sofferenza e la morte non vengono mai semplificate nel tuo libro. Quindi ho notato, poi se posso leggere anche un paio di passaggi brevissimi. Ci sono due passaggi fin dall'inizio del libro che mi sono piaciuti molto. Innanzitutto, tu hai definito i nazisti come un altro nome dei fascisti, e questo secondo me è un aspetto molto interessante del tuo libro, perché comunque il dibattito su il fascismo, i fascismi, quanto il nazismo rientra all'interno di un contenitore, di un concetto di fascismo a livello europeo, qui comunque emerge chiaramente che dal tuo punto di vista comunque rappresentano la stessa cosa. E invece più avanti nel libro un altro aspetto interessante, adesso sì, ti leggo due righe. I due soldati in lunghi cappotti facevano la guardia alla porta, fumavano una sigaretta e chiacchieravano. Non sembravano lupi feroci, ma persone qualunque. Ho pensato che la guerra in fondo è proprio questo, persone normali che commettono normali cose terribili. A me qui immediatamente è venuto in mente Hannah Arendt, sostanzialmente il famoso concetto della banalità del male. Quindi mi piacerebbe appunto che tu ci parlassi proprio di questo. Beh, allora il riferimento, grazie, era esattamente alla Arendt in quel punto lì. Invece quello dei fascisti è storico, nel senso che proprio il discorso che fece Molotov quando i nazisti attaccarono la Russia e che nel libro se ne cita proprio un pezzettino fedelmente, era proprio così, parola per parola. E Molotov non parla di nazisti, penso, se non mi ricordo male, ora non ho il documento sotto gli occhi, ma penso che non dica mai nazisti una volta e dice sempre fascisti. E effettivamente in tutte le documentazioni che ho trovato io, i russi di solito parlano di fascisti e non di nazisti, e quindi di un'ideologia che comprende poi tutte le declinazioni che ha avuto. A me ha stupito questa cosa, devo dire la verità, non me l'aspettavo, e mi è sembrato significativo tenerla e metterla nel libro, perché la rendeva più vicina. Bene, anche perché poi, cioè, al di là di tutte le interpretazioni successive che sono state date appunto all'interno di questo mai risolto dibattito tra fascismo e fascismi, in realtà, risalendo alle fonti dell'epoca, tu hai trovato una chiave, ecco. Sì, ho trovato una chiave d'epoca che poi onestamente non so se Molotov intendesse una cosa un po', certo, diversa da come la intendo io, però a me sembrava significativa e quindi l'ho tenuta. E Davide, scusa, ti volevo chiedere una cosa, una delle prime cose che si notano sfogliando il libro è proprio questa impressione un po' di libro di bozze, un diario che viene tenuto, in cui ci sono anche delle riproduzioni di immagini storiche, guardo le piantine ma anche i vari ritratti, le fotografie della propaganda sovietica. Ci puoi raccontare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come hai costruito il prodotto finale, che è questo libro per l'appunto? Allora, questo libro qui è nato da subito insieme al team di Mondadori, con l'idea di renderlo molto particolare dal punto di vista visivo, e quindi da subito io ho proposto che i gemelli scrivessero in due colori diversi e che ci fossero molte immagini dentro. E loro mi hanno detto di sì, e non è stato scontato da parte loro, perché è complicato lavorare un libro così, quindi è stato un onore che mi abbiano detto di sì. E a quel punto c'è stato un lavoro gigantesco dietro, nel senso che in stesura io segnavo una serie di immagini che io avrei voluto dentro il libro, o semplici suggestioni tipo qui ci vorrai una mappa, qui ci vorrai una foto d'epoca. E poi c'è stato principalmente Stefano Moro di Mondadori che si è occupato poi di realizzarlo materialmente e ci ha speso e ci abbiamo poi speso insieme mesi e mesi alla ricerca delle immagini perfette. D'accordo, guarda, sei stato troppo gentile. Io ti ringrazio anche perché ho amato tantissimo il tuo libro, e quindi ti ringrazio tanto per la tua disponibilità. Io, se avessi avuto probabilmente 14-15 anni, l'avrei messo a fianco Diario in Bolivia o Il Vecchio wow. Mare, Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, che erano i miei libri dei 14 anni, quindi davvero. Grazie, anche per me sono stati libri dei 14 anni, quindi sono onorato. Davvero grazie, troppo gentile. Va bene, grazie mille Davide. E La sfolgolante luce, Due stelle rosse, Il caso dei quaderni di Victor e Nadia, un romanzo di Davide Morosinotto, è in libreria, è caldamente consigliato, non solo per i ragazzi, ma è anche consigliato per un pubblico di adulti che può apprezzare un prodotto editoriale così particolare e così ben costruito, che porta proprio a essersi, ad immergersi in una storia che proviene dal passato, come piace a noi. Grazie mille Davide. Grazie mille a tutti voi, ciao. Ciao, grazie. Bene, sulle rotte di Black Roots Opportunity ritorniamo in studio, ringraziamo ancora Davide per essere stato con noi e suggeriamo calorosamente il suo testo come uno dei libri che può far parte delle letture di quest'estate. Ricordiamo il titolo, è La sfolgorante luce di due stelle rosse, il caso dei quaderni di Victor e Nadia, edito da Mondadori nel 2017. Per oggi è decisamente tutto, un buon proseguimento di giornata da Frey e da Priscilla, buon pomeriggio. Ciao. Grazie.